America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Vorrei dedicare la puntata di oggi a un fenomeno molto importante e epocale che sta per capitare a New York, qui in città ai primi di marzo. Ci sarà l'inaugurazione della stazione, della nuova stazione del World Trade Center, il cosiddetto World Trade Center Transportation Hub, che è una colossale scultura vista da fuori. È come, immaginate, le ali di un gabbiano che si aprono, oppure di una colomba. Tutto è molto bianco, e quello che succede di importante però è nel sotterraneo, perché quello è l'ingresso alla grande stazione. In questa stazione c'è la metropolitana, c'è l'accesso ai treni PATH, e le linee della metropolitana tra l'altro sono 11. C'è un collegamento diretto con le quattro torri del World Financial Center, con il World Trade Center, con la piazza del Memoriale. Ci sono circa 2 chilometri di corridoi che collegano in modo sotterraneo tutta la zona del World Trade Center. C'è anche un accesso al terminal dei traghetti di Battery Park City. Costo 4 miliardi di dollari, un progetto complicatissimo dal punto di vista ingegneristico, perché si trattava di ricostruire praticamente un intreccio, appunto, di ferrovie, di metropolitane, di corridoi, di un parcheggio. C'è una stazione degli autobus, insomma, una sfida molto molto complessa anche dal punto di vista tecnico, e devo dirvi, a vederla è davvero molto molto bella. Ci sarà un traffico, si stima, fra le 250.000 e le 300-400.000 persone al giorno. Ma ho avuto l'opportunità ieri mattina di andare in questa straordinaria stazione, di visitarla proprio con la guida dell'architetto Calatrava, che ho intervistato. Sentiamo. Buongiorno Santiago. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto cerchiamo di descrivere, dunque io vorrei descrivervi, perché vista da fuori la stazione, l'ingresso a questa straordinaria stazione, è come un monumento, è quasi una scultura, è come se fossero delle ali di un gabbiano che si aprono, c'è un senso di spazio, di visione, di speranza. Ecco, perché non ci descrive che cosa ha voluto dare intanto con questo disegno? Diciamo, da una parte ho costruito anche 7 altre stazioni. Devo dire che questo caso è un caso molto speciale per il posto dove si trova e le circostanze dell'11 di settembre. È un desiderio di servire alla città di New York e anche di integrarsi nel contesto e la tradizione di New York di grandi stazioni come è la Grand Central, o come era una volta Penn Station. È nato un edificio di cui una parte che esce fuori ha un carattere di segnale ma anche di simbolo, e diventa la base sulla cui si trovano tutte le altre torri. Dunque, sì, perché si estende sottoterra in modo enorme. Ci sono praticamente più di quasi 2 chilometri di percorsi che si possono far qua. Sì, ecco, noi abbiamo visto la parte ovest, la parte est, adesso siamo in un corridoio. Qual è il ruolo di questo corridoio? Questo corridoio collega sotto Fulton e sotto la West Street la stazione con il World Financial Center. Quando lei esce dal World Financial Center c'è il ferry che porta anche a New Jersey, dunque questo è molto frequentato soprattutto alle ore punta. In realtà però è tutto accompagnato di tanti negozi, dunque è un posto di vita, è un monumento alla vita in realtà. Penso che sarà quello che si chiama qua un'ancora di sviluppo, certamente lo diventerà, come Grand Central diventai anche l'ancora di tutto lo sviluppo della città in quella zona. Ecco, nella grande cupola, perché possiamo chiamarla cupola, così, sì, mi piace molto questa cupola, grande cupola, una cupola un po' oblunga, e poi sopra c'è come una spaccatura, come un taglio aperto, e si vede il cielo. Cosa richiama? Mi piace molto la parola cupola, perché la madre di tutte le cupole si trova a Roma ed è il Panteo. Allora nel fondo c'è nettamente un riferimento a quell'edificio magico e straordinario che ha servito già dal tempo dei Romani in poi fino ai nostri giorni, e ha un carattere simbolico che ha una piena validità. Allora questa specie di raggio di luce che entra dentro, abbiamo voluto significarlo anche attraverso l'apertura di questa spaccatura longitudinale a lungo la struttura, che rende le due parti indipendenti e che ci fa vedere un taglio nel cielo di New York, come quella del Panteo fa vedere ritaglia il cielo e di c'è Roma. Un disegno di luce come idea del sole che sì, passa perché c'è un guarda nel master plan dell'architetto Daniel Libeskind io credo che lui aveva introdotto certe componenti piuttosto poetiche e una delle idee poetiche che a me mi risultava molto suggestiva era questa del cuneo di luce che rappresentava virtualmente la posizione del sole quando il primo impatto accade e la posizione del sole alla fine del quando la seconda torre crolla e io orientai anche la stazione seguendo questa linea di luce che è una linea virtuale in realtà. Allora quello che capita è che noi abbiamo pensato assieme alla Port Authority che il 11 di settembre di ogni anno nel tempo della tragedia il tetto sarà aperto se piove o non piove. Ho capito. L'edificio contiene in se stesso un segno, diciamo, fisico senza aver nessuna scritta. Ecco, ci sono molte aziende italiane che hanno contribuito. Mi diceva che tutta la struttura in acciaio e tutto il marmo viene dall'Italia. Da dove? C'è un contributo sostanziale che viene dall'Italia, due contributi. Uno è stato con la pietra bianca che viene delle cave dell'Assa e che è stata manufatturata sia all'Assa che a Carrara. E anche l'acciaio di quello che noi chiamiamo l'Oculus, che è la parte centrale che è stata fabbricata a Pordenone da una ditta di Pordenone che si chiama Scimolai. Ci sarebbero gli altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, direi continuiamo con una coda dei Grammy Awards. Ogni giorno cerco di farvi ascoltare una delle canzoni che ha vinto qualcosa. Oggi tocca a Taylor Swift, Out of the Woods, l'ultimo single dell'album 1989. Ecco, questo album ha vinto miglior album dell'anno e miglior album pop dell'anno. Dunque da 1989, Out of the Woods, Taylor Swift. Looking at it now, it all seems so simple. We were lying on your couch. I remember. Vi saluto e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!